24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la visita del premier italiano Mario Monti a Bruxelles. Monti ha rassicurato l'Europa sugli impegni in termini di riforme strutturali che il governo intende portare avanti. Pieno sostegno da parte dei presidenti di Commissione e Consiglio europeo. Sui mercati ancora forti tensioni e chiusura in rosso. Oggi vi parleremo anche dell'aggravarsi della crisi politica in Belgio e delle nuove accuse europee all'Italia sulla crisi rifiuti a Napoli. L'Italia intende procedere con le riforme strutturali in modo più incisivo rispetto a quanto fatto dal governo precedente. Al suo esordio ieri a Bruxelles, il premier Mario Monti consegna all'Europa un messaggio chiaro. Sentiamo. Rispetto al governo precedente, essendo cambiate le condizioni ed essendoci in questo momento, e farò di tutto per mantenerlo vivo, un consenso più ampio, un clima meno conflittuale, una maggiore volontà di cooperazione tra le forze politiche e le forze sociali, credo che potremo andare più decisamente a fondo. Monti ha incontrato in due tappe i massimi vertici dell'Unione Europea, prima il presidente della Commissione Barroso, poi quello dell'Unione Van Rompuy. Mario Monti has authority to guide Italy. Da Barroso l'incoraggiamento più forte, quella di Monti è una sfida enorme, ma il premier italiano ha l'autorità per guidare il paese. Barroso non ha nascosto la preoccupazione sulla situazione degli spread in Italia e ha promesso di continuare il monitoraggio delle riforme. Il presidente della Commissione ha elencato le tre condizioni per uscire dalla crisi: determinazione nell'applicazione delle misure annunciate, sforzo per mantenere l'avanzo primario e interventi per aumentare il potenziale di crescita. E quando Monti ha incontrato Van Rompuy, il confronto si è spostato sugli eurobond. Oggi Bruxelles presenterà proposte operative per attuarli. Il presidente europeo, conscio del terreno minato dalle opposizioni tedesche, dribbla le domande definendo le euro-obbligazioni come una soluzione non immediata al problema della crisi. Si spinge però oltre Monti, che afferma non ci devono essere tabù, lasciando così intravedere una linea più favorevole. Sentiamo. Io sono e credo che continuerò ad essere dell'idea che non debbano esistere tabù quanto agli oggetti di discussione. Il tema specifico l'ho per parte mia del resto proposto, e non sono l'unico proponente, ne abbiamo avuti di accademici, di politici di alto livello come il presidente dell'Eurogruppo e primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker o il mio predecessore ministro Giulio Tremonti. Per parte mia ho evidenziato l'opportunità di considerare questo tema degli eurobonds in tutt'altro contesto. Condivido molto quello che ha detto il presidente Van Rompuy sul fatto che in ogni caso non deve essere visto come elusivo della disciplina finanziaria, ma anzi io credo, e così argomentavo nel mio rapporto al presidente Barroso, che possa contribuire a fare dei mercati una forza più stabile nel disciplinare i bilanci pubblici. Piccolo giallo infine sull'impegno per il pareggio di bilancio nel 2013. Monti a fine pomeriggio chiarisce: questo obiettivo non è mai stato messo in discussione. L'Europa proseguirà lo stretto monitoraggio dell'Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, così il commissario agli affari economici europei Olli Rehn da Berlino, spiegando che il lavoro con il nuovo governo è avviato e le sfide che deve affrontare sono difficili. Ancora una seduta con il segno rosso per le borse europee. Milano ha fatto peggio di tutte le altre, risentendo anche del rialzo dello spread, è tornato in area a 490 punti. Il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,54%. Sentiamo. Ancora una seduta con il segno rosso per le borse europee. La revisione al ribasso del prodotto interno lordo americano del terzo trimestre e i timori sul debito hanno incoraggiato di nuovo gli ordini in vendita. Milano ha fatto peggio di tutti i mercati, risentendo anche del rialzo dello spread tornato in area a 490 punti. Il FTSE MIB ha così chiuso in calo dell'1,54%. Sono andate male le azioni delle banche, tranne quelle di BPM, che sul finale sono volate di oltre il 9%. Il prezzo però, di 28 centesimi, rimane al di sotto delle azioni di nuova emissione legate all'aumento di capitale da 800 milioni che si è concluso venerdì scorso. ST Microelectronics ha perso il 5,3%, risentendo dei conti deludenti pubblicati negli ultimi giorni da aziende concorrenti e che mettono in evidenza un settore dei chips in sofferenza. Sono rimbalzate le Prismian, più 2,9%, e le Pirelli, più 0,5%. 0,55%. Finmeccanica, dopo i recenti scivoloni, ha registrato un timido rialzo dello 0,27%, mentre procedono le indagini sul ruolo della società nel finanziamento illecito ai partiti. Da metà novembre, però, i titoli della società aerospaziale hanno perso oltre il 30% del proprio valore, risentendo prima dei deludenti conti dei primi 9 mesi e poi degli scandali giudiziari. Eleonora Micheli da Radio Corp, per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Di crisi economiche di mercati ha parlato anche il cardinale Bertone, lanciando un allarme al congresso delle conferenze episcopali europee. Sentiamo quale. Il Vaticano torna ad intervenire sulla crisi economica e lo fa questa volta con il segretario di Stato. Parlando al congresso delle conferenze episcopali europee, il cardinal Tarcisio Bertone ha detto che la crisi pone in evidenza l'insostenibilità di un mercato totalmente autoreferenziale e solleva nuove questioni circa la responsabilità e l'etica dei processi finanziari. Un mese fa, la Santa Sede, con un documento del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, sulla scorta dell'enciclica del Papa Caritas in Veritate, aveva già chiesto con forza una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale, con la creazione di una banca centrale mondiale e l'istituzione di una tassazione delle transazioni finanziarie a livello globale. Bertone ha toccato anche il tema della laicità. Nell'Europa di oggi, ha detto, è sempre più difficile distinguere tra verità, errori e menzogne. Un certo pluralismo, ha aggiunto, non vuole permettere che si distingua tra il bene e il male. Accanto ad una sana laicità è presente un laicismo intollerante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I 27 Stati membri europei hanno raggiunto un accordo di principio per estendere le sanzioni contro l'Iran ad altri 190 nomi tra personalità del regime ed entità economiche ai quali saranno congelati beni e visti d'ingresso. Il nuovo pacchetto sarà approvato dai ministri degli esteri il prossimo 1 dicembre. Voltiamo ora pagina, rifiuti a Napoli, nuove accuse arrivano da Bruxelles. Tempo scaduto. La situazione dei rifiuti a Napoli è una vergogna. Bisogna fare presto per attivare la raccolta differenziata. Non ci sono scuse per i ritardi. Parole inequivocabili pronunciate in Parlamento dal commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik. Entro venerdì bisogna presentare all'Unione Europea un piano convincente. Se si vogliono evitare sanzioni, chiede il commissario, chiarendo che se il piano non arriverà, la Commissione notificherà una multa molto importante, almeno 20 milioni, più un'ammenda quotidiana per ogni giorno di ritardo. La sanzione si sommerebbe al blocco dei 145 milioni di fondi POR e FAS per la Campania, deciso all'epoca dell'apertura della procedura di infrazione nel 2007. E la politica locale sul tema si divide. Tutto quello che il comune doveva fare in tema di rifiuti lo sta facendo e anzi fa di più, la replica del sindaco De Magistris. Per quanto riguarda il piano, lo si deve chiedere al presidente della regione, ha poi aggiunto. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È sempre più confusa la situazione della crisi politica in Belgio. Il commento di Enrico Brivio del Sole 24 Ore. La situazione è tornata in alto mare dopo ben 527 giorni di crisi. Il socialista Elio Di Rupo ha presentato le sue dimissioni al re Alberto II e la situazione risulta molto difficile, perché i 6 partiti che dovevano, 3 fiamminghi e 3 valloni, che dovevano far parte della coalizione di governo, non sono riusciti a trovare un accordo sulle misure per riportare il deficit pubblico sotto il 3%, cioè dovevano trovare 11,3 miliardi di euro per il bilancio 2012. E in questo forse i fiamminghi, che soprattutto i liberali fiamminghi che volevano delle misure più ambiziose, hanno provocato il blocco, il nuovo stallo che lascia il paese in una situazione di crisi che è stata anche accolta male dai mercati, visto che lo spread dei titoli belgi rispetto a quelli tedeschi è risalito a 312 punti base. La Francia piange la sua ex premier dame. È morta Danielle Mitterrand, vedova dell'ex presidente transalpino. È stata una paladina dei diritti umani e prima ancora una partigiana. Soltanto dopo è stata la signora Mitterrand e la premier dame di Francia. Danielle Mitterrand è morta stanotte a Parigi all'età di 87 anni. Nata nell'est del paese, si era unita a 17 anni alla resistenza contro i nazisti. Conobbe il capitan Morland, ovvero François Mitterrand, in Borgogna, nella casa di famiglia dove si era rifugiato suo padre. Ai tempi Mitterrand era ricercato dalla Gestapo. Si sposarono il 27 ottobre 1944. Da allora è stata al fianco del marito in diverse campagne e avventure politiche sino al 1981, quando lui venne eletto alla presidenza della Repubblica e Daniel approfittò del suo ruolo di premier d'Am per sostenere le cause a lei più care in difesa dei popoli oppressi, dai curdi ai tibetani, ai cubani, agli indios messicani. Personne sensée ne peut qu'adhérer à cette volonté de paix. Al funerale del marito nel 96 è stata Daniel ad abbracciare la figlia segreta che lui aveva avuto da un'altra donna. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.